Il cacciatore nel bosco, mentre alla caccia andava, incontrò una signorinella graziosa e bella. Il cacciatore si innamorò, incontrò una signorinella graziosa e bella. Il cacciatore si innamorò, la prese per la mano e la condusse a sedere. Dal gusto, dal piacere, dal gran godere, la ragazzina s'addormentò. Dal gusto, dal piacere, dal gran godere, la ragazzina s'addormentò. In punto a mezzanotte la bella si è svegliata, alzando gli occhi al cielo gridava piangendo: oh, che crudele tu m'hai tradì. Alzando gli occhi al cielo gridava piangendo: oh, che crudele tu m'hai tradì. Bella, non t'ho tradito, non sono un traditore, son figlio di un gran signore, di un gran signore. Io te lo giuro, ti sposerò, di un gran signore, di un gran signore. Io te lo giuro, ti sposo.